mai incrociare i flussi. Perché? Sarebbe male. Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male? Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. Inversione protonica totale. E quello è male. Ok. Sono cigoli, ho sommesso di notte nella tua stanza. Ho commesso infrazione, truffa e porto rap sostanza. La voce nella vostra testa incalza. Sfruttatore di incertezze, siamo per la latitanza. Noi invisibili, la cancrena del sistema. Ectoplasmi che dal nulla si riprendono la scena. E spera di non vedermi nella zona, perché spingiamo rap fantasma tra Genova e Savona. Prova a fare finta di non vederci sul palco. Resta pure nel branco, ritieniti in salvo. Ma quando canti non si sente il tuo pianto. Noi intanto abbiamo sabotato l'impianto. Siamo in tanti, come ectoplasmi nel grigiore. Siamo in tanti, nei quartieri come una prigione. Guardo altrove, mentre cerco una direzione. Lasciamo a voi le luci, ci nutriamo di rancore. Siamo in tanti, invisibili al sistema. Ectoplasmi che dal buio si riprendono la scena. Fantasmi, invisibili al sistema. Mentre dormi, noi ci riprendiamo la scena. Siamo in tanti, invisibili al sistema. Ectoplasmi che dal buio si riprendono la scena. Fantasmi, invisibili al sistema. Mentre dormi, noi ci riprendiamo la scena. Venite pure con lo zaino, giovani Ghostbusters, è la scena. Ma non basta un raggio di protoni contro un anatema. Chi si è confitto con fantasma e spinge merda fra di loro. In realtà è un uomo di carne ricoperto da un lenzuolo. Siamo il taglio della tela, la fonte di questi suoni. Ectoplasmi che attraversano sto muro di campioni. Chiama il numero in sovraimpressione che ti dà lo schermo. Prima che arrivi qualcuno dalle casse esce l'inferno. Inferno, viviamo nei respiri dei tombini. Dentro l'aria che fa fumo quando anneghi nei deliri. Dentro i tasti di un PC, senza mani operatrici. Fuori dal corpo di chi è morto, ha sciolto le sue cicatrici. Fat MC, man, chiamami ectoplasma se ti porto un netto in caspa. Elettrocardio, palma, calma, la città fuori. La mia storia non finisce fra gli scheletri del mobile. Ectoplasmi ti ritorna a fanculo con l'ectomobile. Siamo in tanti, invisibili al sistema. Ectoplasmi che dal buio si riprendono la scena. Fantasmi, invisibili al sistema. Mentre dormi, noi ci riprendiamo la scena. Siamo in tanti, invisibili al sistema. Ectoplasmi che dal buio si riprendono la scena. Fantasmi, invisibili al sistema. Mentre dormi, noi ci riprendiamo la scena. Se questo è quello che offre questa scena di pagliacci col naso rosso e il culo pure, perché abituati a piegarsi loro. Se sanno adattarsi alle richieste dei paganti, ridicolizzarsi anche se gli ricambia pomodori marci. Rimango fuori dal tendone senza invito. Taglio i cavi che lo reggono e poi corro divertito via. I loro occhi non mi vedono e le orecchie non mi sentono. Forse è proprio questa la salvezza mia. Ormai appaio quando capita, quando il sole spende qualche raggio in cambio di una rima candida. Se no mi trovi in camera a rincorrere menzogne con il naso lungo e con le gambe corte alle tre di notte. Sono come fumo effimero sul ritmo. Se provi a limitarmi mi libero e poi svanisco. Cercavi una risposta, sta qui in queste parole. Ectoplasma dal panico fantasma, stessa posizione.